Letture di Radio 24. Nel luglio del 2012 la Corte di Cassazione conferma in via definitiva le condanne per falso aggravato ai funzionari di polizia coinvolti nelle violenze alla scuola di Via Diaz di Genova del 2001. Le condanne erano state emesse 2 anni prima dalla Corte d'Appello di Genova, il cui presidente era Salvatore Sinagra, che però si scopre ora non avrebbe dovuto essere lì, per raggiunti limiti di età. Intervistato il giorno successivo, Sinagra aveva dichiarato a proposito della sentenza: «Era un sassolino che volevo togliermi dalla scarpa». I magistrati devono essere imparziali o possono togliersi sassolini dalle scarpe? Dalle carte in mano ai difensori dei dirigenti di polizia condannati per falso ideologico sui fatti del G8 di Genova emergono retroscena da approfondire. Giovanni Luperi, Francesco Gratteri, Gilberto Caldarozzi, Spartaco Mortola, Nando Dominici, Filippo Ferri, Salvatore Gava, Fabio Cicci Marra, Carlo Di Sarro, Massimo Mazzoli, Davide Di Novi e Renzo Cerchi, assolti nel novembre del 2008 dal Tribunale di Genova, furono condannati in appello nel maggio 2010 e in Cassazione nel luglio 2012. L'accusa di lesioni aggravate era stata archiviata nel 2005. Quasi tutti non hanno ottenuto l'affidamento ai servizi sociali e stanno scontando la pena ai domiciliari. Il presidente della terza sezione della Corte d'Appello di Genova era Salvatore Sinagra, che però non doveva essere lì. Che cosa era successo? Sinagra, esponente della corrente Magistratura Democratica, aveva compiuto 70 anni il 29 gennaio 2010. Una legge del 2008, recepita dal CSM nello stesso anno, prevede che la domanda di permanenza in servizio dei dipendenti pubblici, fino a 75 anni per i magistrati, deve essere presentata almeno 12 mesi prima del compimento dell'età da pensione, che per le toghe equivale a 70 anni. Invece Sinagra aveva presentato la domanda il 27 novembre 2009, solo 2 mesi prima. Il Consiglio giudiziario di Genova l'aveva considerata tardiva, rimettendosi però al CSM, il cui plenum se n'era occupato il 20 gennaio 2010, a 9 giorni dal compleanno di Sinagra. Che cosa accade? Livio Pepino, presidente di Magistratura Democratica dal 1998 al 2005 e in prima linea nella lotta dei NOTAV, insiste perché si decida entro il 29 gennaio, visto che Sinagra è presidente del collegio che sta giudicando in appello sul processo per la scuola Diaz e contesta sia chi vuole applicare la giurisprudenza consolidata, sia chi vuole rinviare. Conclusione, il CSM adotta la circolare numero 1493, con cui ribadisce la perentorietà dei termini per le domande, introducendo però un periodo transitorio per quelle giunte entro il 3 marzo 2010, salvando così Sinagra e altri magistrati. Tutto normale? Sinagra, il giorno dopo il deposito delle motivazioni della sentenza, in un'intervista al Secolo XIX, dice che era un sassolino che volevo togliermi dalla scarpa e alla fine di quel 2010 se ne va in pensione, usufruendo solo per pochi mesi della proroga, giusto il tempo del processo che avrebbe avuto un ritardo minimo in caso di sostituzione del presidente, perché ancora all'inizio. Un processo di 18 udienze contro le 172 in primo grado e concluso negando le attenuanti generiche che sono prassi per il falso ideologico, senza le quali la pena ha potuto superare i 3 anni e l'interdizione dai pubblici uffici i 5. Per Sinagra era solo un sassolino. Per la giustizia rischia di essere un macigno. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Stefano Vespa, I sassolini del giudice del G8, da Panorama del 22 gennaio. Letture di Radio 24. Adam Kabobo, il ghanese che l'11 maggio dello scorso anno uccise 3 passanti a picconate, potrebbe essere rimesso in libertà, perché una perizia disposta dal Tribunale del Riesame, effettuata dal medico legale Marco Scaglione, lo ha giudicato incompatibile con il carcere e ne ha chiesto il trasferimento in un ospedale psichiatrico. Un articolo pubblicato su Repubblica il 21 gennaio riporta i commenti del figlio di una delle vittime, che definisce razzismo al contrario l'ipotesi di scarcerazione del pluriomicida. Andrea Masini, figlio di Ermanno, dice che se lo aspettava fin dall'inizio. Questo è un paese strano, dove si fa di tutto per dare aiuto a chi, per quello che ha fatto, non dovrebbe riceverlo. C'è amarezza nella reazione dei parenti delle vittime di Adam Kabobo, il 31enne ghanese che l'11 maggio uccise tre passanti a Niguarda a colpi di picconate. Secondo l'ultima perizia, l'uomo oggi detenuto a San Vittore va trasferito in un ospedale psichiatrico giudiziario perché le sue condizioni di salute sono incompatibili con il carcere. Un esito controverso che divide anche la politica. La perizia disposta dal riesame ha valutato che la cella, dove il 13 novembre peraltro Kabobo aveva cercato di strangolare il compagno di cella perché sostenne sentiva delle voci, non è il luogo migliore per la detenzione. Meglio un ospedale psichiatrico, dice il medico legale Marco Scaglione, incaricato dal tribunale del riesame di effettuare nuovi esami sul ghanese. E lunedì i giudici dovranno decidere se ascoltarlo o meno. Una precedente perizia aveva stabilito che Kabobo è processabile, il processo inizierà il 6 febbraio, non essendo incapace di intendere e di volere, ma che allo stesso tempo soffre di una forma di psicosi schizofrenica. Io ero partito dal presupposto che andasse così fin dall'inizio e mi ero pure stupito quando avevano deciso di processarlo, prosegue Masini. Se la strada è questa, non farà nemmeno un anno di carcere. E non posso che ringraziare lo Stato perché purtroppo è colpa sua se mi trovo in questa situazione. Ma la riflessione, amara, è più ampia. Io, chiaro, ce l'ho con Kabobo perché ha ucciso mio padre, ma il problema vero non è lui. Come lui ce ne sono tanti in giro. Il problema è chi non sa gestire queste situazioni. Io capisco accogliere chi scappa da un disagio, ma poi non si può abbandonare la gente così al suo destino. Questo è vero razzismo. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo Kabobo fuori? Razzismo al contrario, da Repubblica del 21 gennaio. In un editoriale pubblicato lo stesso giorno su Libero, Maria Giovanna Maglie mette a confronto l'ipotesi di scarcerazione del pluriomicida Kabobo con gli arresti domiciliari per Silvio Berlusconi. Adam Kabobo non va in carcere. Massacrò a colpi di piccone tre sventurati che trovò per la strada. Ne aggredì sette. Prima aveva devastato un centro di accoglienza a Lecce, a San Vittore. Ha quasi strangolato il compagno di cella. D'altro canto, Silvio Berlusconi forse in carcere ci va. È il capo del secondo partito italiano. È il primo contribuente d'Italia. È stato condannato per un'evasione fiscale per la quale l'amministratore delegato della sua azienda è stato invece assolto. E ora, a comparabile tempo di record, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha fissato al 10 aprile l'udienza in cui verrà discusso se affidarlo in prova ai servizi sociali o spedirlo agli arresti domiciliari. Il giorno dell'udienza del 10 aprile, il Tribunale di Sorveglianza di Milano, presieduto dal giudice Pasquale Nobile De Santis, dovrà avere sul tavolo la relazione degli assistenti sociali incaricati di fornire la loro opinione sul comportamento futuro del cavaliere e sulla possibilità che si astenga dal commettere altri reati del tipo di quello che hanno portato alla sua condanna. Quindi, nelle prossime settimane, assistenti e psicologi incontreranno Silvio Berlusconi per, avete letto bene, studiarne la personalità. La legge consente, nel caso in cui il cavaliere rifiutasse i colloqui o desse agli esaminatori un'immagine negativa, che il tribunale di sorveglianza rifiuti l'affidamento in prova. In tal caso, scatterebbe l'arresto. È già successo ai funzionari di polizia condannati per i fatti del G8 di Genova. Questo è il paese nel quale la condizione carceraria è ritenuta miserevole, tant'è vero che periodiche richieste di indulto o amnistia svolgono, o cercano di farlo, il ruolo di svuotacarceri. Si fa ricorso al carcere preventivo anche per reati che non lo richiederebbero, persino per sostituire confessioni che tardano o indurre a collaborazioni e pentimenti. Si resta per anni in attesa di giudizio, magari in isolamento, magari diventando pazzi dopo essere entrati sani, magari provando e riuscendo ad ammazzarsi. Niente. Poi arriva il giustificazionismo ideologico, e c'è il raptus, il momento di follia, la storia dell'infanzia infelice, del migrante povero, della cultura diversa da rispettare. In questi casi scatta l'eccesso opposto. Le eccezioni si sprecano, le galere si aprono o si evitano. Non c'è mai un criterio di certezza della pena. Tra magistratura, assistenti sociali e psicologi, il cocktail può essere micidiale, tanto più se si tratta di far piangere i ricchi e famosi. Kabobo non è più schizofrenico del sistema giudiziario del quale siamo ostaggio tutti. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dall'editoriale di Maria Giovanna Maglie, Cabobo fuori, Silvio dentro, da Libero del 21 gennaio. La crisi fa aumentare il numero dei passeggeri dei treni, ma il servizio ferroviario regionale continua a peggiorare. Da una parte c'è l'alta velocità, dall'altra ci sono i carri bestiame per i pendolari, perennemente in ritardo. Con il passare degli anni aumentano tariffe di servizi e diminuiscono i convogli, mentre negli ultimi 3 anni le regioni hanno tagliato 700 milioni per i mezzi pubblici. Da più di 20 anni si parla di reinvestire gli utili delle costosissime Frecce Rosse e Frecce Bianche sulle linee locali, ma non se n'è mai fatto nulla. La liberalizzazione dei trasporti, iniziata a settembre 2009, è rimasta solo virtuale. Soltanto la Lombardia si è aperta ai privati, creando la società Trenord, ma lo ha fatto unendo 2 mele marce, le Ferrovie Nord, da sempre sinonimo di ritardi e inefficienza, e la sezione regionale di Trenitalia, che in quanto a di servizi non è mai stata da meno. Il risultato, commenta Marco Ponti, docente di economia al Politecnico di Milano, è che fondendo le 2 linee regionali si è distrutta ogni concorrenza. È esattamente il contrario di quello che si dovrebbe fare. In compenso, a Napoli i privati ci sono, ma molti sono abusivi. In un'inchiesta pubblicata sull'Espresso, Michele Sasso fotografa la drammatica situazione del trasporto ferroviario regionale in Italia. Lenti, scomodi, sporchi e sempre più rari. Treni e autobus per i pendolari sono mezzi in via d'estinzione. Ogni mattina 8 milioni di persone lottano per salire a bordo. I passeggeri aumentano perché la crisi obbliga tanti a lasciare l'auto nel parcheggio o a cercare una casa meno cara lontano dalla metropoli. Le corse invece diminuiscono, per scelta o per mancanza di manutenzione, mentre la puntualità è un'utopia. Ogni anno accumulo 100 ore di ritardo. Una punizione perché ho scelto di vivere in provincia, racconta Claudio. Lavoro a Milano e appartamento a Cremona. Di chi è la colpa? Come in tutti i mali italiani, le responsabilità sono plurime. Trenitalia corre su altri binari e si concentra sui profitti dell'alta velocità. Il governo non ha soldi. E le regioni, vere padrone del settore, usano soprattutto le forbici. Hanno tagliato 700 milioni nell'ultimo triennio. Per molti governatori, però, non è soltanto una questione di fondi. Latitano pulizia, comfort e rispetto degli orari. La dura realtà del pendolare italiano è però innegabile. Poche carrozze e meno pullman, mentre ogni anno 200.000 passeggeri in più affollano stazioni e fermate. Per la prima volta assistiamo a un cambio di domanda storica e invece di incoraggiare questa tendenza, viene considerata solo una spesa da sfoltire, commenta Marcello Panettoni, presidente di Astra, l'Associazione delle Imprese di Trasporto Pubblico. L'effetto immediato dei fondi ridotti è la drastica riduzione delle carrozze, a volte soltanto 2 per treno, dice sconsolato Cesare Carbonari, del Comitato Torino-Milano, una delle tratte maledette che serve 20.000 viaggiatori. Non si investe, tranne che sull'alta velocità. A Torino, dalle 6 del mattino, abbiamo 5.000 posti di lusso, contro 2.000 per noi. Ma l'abbonamento per il Frecciarossa ha costi proibitivi, 300 euro invece di 130. Per i forzati dei vagoni regionali ormai il posto in piedi è una certezza. Tra la Lombardia e il Veneto, il braccio di ferro per la soppressione di 8 interregionali che collegano Milano e Venezia è durato 3 mesi. Gli ultimi low cost con il biglietto da 17 euro contro i 37 dell'alta velocità sono stati cancellati con il nuovo orario del 15 dicembre. Ora bisogna scendere a Verona e prendere la coincidenza per la Laguna o viceversa per il capoluogo lombardo. I popolosi centri del nord-est sono condannati alle 4 ruote. Non va meglio in Piemonte. Per la rete locale occorrono 610 milioni di euro, ma mancano all'appello 125 milioni. Così si scarica sugli utenti un servizio che arretra senza sosta. Più di 140.000 pendolari emiliani e romagnoli sono costretti alla ritirata a causa dell'alta velocità. Come sulla Bologna-Prato, la linea per arrivare a Firenze, chi deve varcare gli Appennini o accetta tariffe triplicate o si rassegna a 2 ore di viaggio a rischio di soppressioni e ritardi. Oltre 17.000 convogli finiti su un binario morto, più di 5 milioni di persone lasciate a terra in nome della Spending Review e le soppressioni colpiscono sempre le stesse corse. Ogni mattina Miriana, 16 anni, si sveglia e sa che deve correre se vuole arrivare in tempo a scuola. Non è una gazzella e non vive nemmeno in Africa, ma a Poggio Marino, in provincia di Napoli, dove i convogli della Circumvesuviana oggi sono un miraggio. Dei 142 treni a disposizione, 92 sono in manutenzione. Il resto dovrebbe garantire spostamenti per 70.000 passeggeri al giorno, tra studenti e lavoratori. Tutte le mattine alla stazione di Napoli Porta Nolana un altoparlante annuncia: causa assenza materiale rotabile, vengono soppresse le corse. Per questo Miriana e i suoi amici sono dovuti correre ai ripari. Per coprire i 10 chilometri che li separa dal liceo di Sarno, si sono affidati a un'azienda privata, un servizio sostitutivo ma regolare, un pulmino con 30 posti e la puntualità garantita, a un costo di 600 euro per tutto l'anno scolastico. Un caso non isolato, se gli autobus privati della provincia napoletana sono diverse decine. Segno che il trasporto da queste parti non è più pubblico. Un nuovo business in tutta l'area vesuviana, dove rispuntano i pulmini abusivi, proprio come nelle città africane. Incassano soldi cash, senza ricevuta, una manna per gli irregolari. Per coprire i 100 chilometri che separano Palermo da Trapani, i treni impiegano 4 ore. Per arrivare al centro dell'isola ne occorrono oltre 8, più del tempo del volo da Roma a New York. Per gli oltre 70.000 pendolari siciliani, la ferrovia è una chimera. Negli ultimi 2 anni sono stati soppressi 6.000 convogli, di cui solo 1.500 sostituiti da bus. Eppure i fondi per portare la Sicilia a livello europeo non sono mancati. Nel 2001 arrivarono 1 miliardo e 900 milioni di euro per il raddoppio della Palermo-Messina e per la Catania-Siracusa. 12 anni dopo, lavori al rallentatore e binario unico quasi ovunque sono la dura realtà. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Michele Sasso, La guerra dei treni, dall'Espresso del 16 gennaio.